Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 16 minuti, nuovo appuntamento con Salva Danaio, l'ultimo per questa settimana. Oggi venerdì cerchiamo di fare il punto della situazione sui mercati e come potevamo fare diversamente visto la settimana che ci stiamo lasciando alle spalle, che per noi in Italia è stata abbastanza convulsa per le note vicende legate all'istituto di credito e per l'Europa, che comunque non vive proprio un momento positivo, soprattutto per quanto riguarda alcuni paesi, ma diciamo che in generale anche dagli Stati Uniti non arrivano grandi segnali per la ripresa. E quindi molta tensione, molta volatilità sui mercati. Le materie prime che ancora una volta si confermano bene rifugio per eccellenza, questa mattina ancora record per quanto riguarda l'oro che ha sfiorato i 1.300 dollari l'oncia, ma anche per l'argento, 21,35 dollari l'oncia. Qualche giorno fa, se qualcuno di voi ha sfogliato le pagine di un grande quotidiano, anche la giada superava di gran lunga le quotazioni dell'oro, perché sta diventando sempre più bene rifugio la giada. In questo caso parliamo della giada cinese, ma anche per altri motivi. Subito saluto i miei ospiti, partendo non solo perché è in studio con me e perché è una donna, dalla collega di Plus 24 Lucilla Incorvati. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. E poi al telefono con noi il dottor Davide Pasquali, presidente di Farus SICAV. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E il dottor Corrado Capacci, direttore generale di Compass Asset Management. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, rapidamente ancora vi riepilogo che cosa sta succedendo in questo momento in Europa. Parigi cede uno 0,51, Francoforte lo 0,56%, Londra cede uno 0,34% e sulla stessa linea anche Milano, dove il FTSE All Share cede uno 0,58 e il FTSE MIB lo 0,61%. Prima però di chiamare subito in causa i nostri ospiti, vi ricordo che potete inviare i vostri messaggi al 349-238-6666 e potete intervenire attraverso il nostro numero verde 800 24 00 24. Ora la nostra scheda. Se nella scorsa settimana di borsa erano stati gli effetti di Basilea 3 a catalizzare l'attenzione degli investitori, quella che si chiude oggi è stata per lo più caratterizzata da una corsa all'oro sempre più frenetica. Mercoledì il metallo giallo è salito al nuovo record di 1.298 dollari l'oncia, trascinando con sé l'argento e altri metalli preziosi. Complice l'indebolimento del dollaro, arrivato a 1,334 nei confronti dell'euro, ai minimi da 5 mesi a questa parte. Ad innescare questo trend ha contribuito la decisione annunciata dalla Federal Reserve nei giorni scorsi di combattere la deflazione, svalutando appunto il biglietto verde in modo tale da far salire i prezzi dell'energia e delle merci importate. Se questa è la situazione oltreoceano, in Europa proseguono le preoccupazioni sulla tenuta del debito di alcuni paesi, in particolare dell'Irlanda, che dopo aver superato martedì la prova dell'asta di titoli di Stato, collocando obbligazioni per 1,5 miliardi, ha scatenato ieri nuovi timori sulla tenuta dei propri conti pubblici e dei bilanci bancari. Circostanza che ha fatto impennare il rischio di default percepito dai mercati e i premi di rendimento a nuovi record storici. I credit default swap sul debito irlandese sono saliti al record di 495,5 punti, mentre il differenziale fra il rendimento dei titoli decennali irlandesi e i bond tedeschi è volato al massimo storico di 411 punti. Allora, prima di parlare, ovviamente di tornare a parlare dell'Irlanda, di che cosa sta succedendo, ma anche in altri paesi, perché non solo i rendimenti dei bond dell'Irlanda, dei titoli di Stato irlandesi, ma anche di altri paesi, hanno allungato il passo come differenziali. Ma volevo subito una battuta dal dottor Pasquali, perché se così continua la giornata, anche questo venerdì la borsa chiude male, male per l'Europa. Un altro venerdì, un'altra settimana negativa. Sì, purtroppo sì, perché le notizie che arrivano soprattutto dal fronte degli stati europei non sono certo notizie rassicuranti. Il continuo allargamento degli spread, che è in atto ormai da mesi, incomincia a lasciare un po' tutti perplessi, quindi la prima, diciamo, chi ne risente immediatamente poi sono le borse. quindi sicuramente bisognerà vedere dal lato obbligazionario come finirà la settimana per poi capire anche dal punto di vista borsistico quali saranno le prospettive nelle prossime settimane. Allora, dottor Capacci, dicevamo questi differenziali, possiamo anche dire però che queste aste, e nel caso particolare l'Irlanda, sono andate tutte molto bene. Verrebbe da dire, lì dove il rischio è maggiore, mi ci butto. Beh, fino a quando permane questa situazione sui mercati è sicuramente pericoloso buttarsi. però voglio dire, lì però le aste è non dato sono... Di fatto, è andato di fatto che comunque le aste vengono collocate, ma se si vanno a vedere un po' di dati si capisce anche come sostanzialmente c'è il sistema bancario che sta scomprando questi titoli di Stato che vengono poi finanziati tramite la Banca Centrale Europea con denaro a breve termine, quindi è un modo con cui le banche percepiscono la possibilità di sostenere il margine di interesse, comprano un titolo durata intermedio, anche lunghe, e lo finanziano a breve e mettono su un discreto spread e sostengono il loro conto economico. E dall'altra parte da maggio abbiamo questa rete di salvataggio del Europe, di SSF, in italiano non so neanche come si chiami, comunque il superfondo europeo che hanno creato, che è stato creato palesemente con l'intenzione di non farlo mai attivare, ecco, un po' una specie di bluff nella partita tra governi e mercati, però è lì, l'impressione è che i mercati stiano un po' andando a cercare di chiamare il bluff, a vedere se c'è per davvero oppure no, ecco. Beh, insomma, detta così, la situazione, oltre a non essere incoraggiante e bella da vedere, appare ancora più preoccupante, perché insomma poi chiamare un bluff, se poi il bluff c'è davvero, non è divertente. Lucilla, veniamo un attimo a noi, perché comunque la copertina di domani di Plus in qualche modo può rientrare nel nostro discorso, perché chiama in causa i paesi emergenti, ma nuovi paesi emergenti, dove in questo momento, che è un momento di grande difficoltà, eventualmente si può andare a vedere se c'è qualcosa di interessante. Allora, visto che veniamo da ormai, direi sicuramente, 12 mesi di mercati volatili per quanto riguarda l'Europa e gli Stati Uniti, come anche appunto un trend che continua anche adesso, siamo andati a vedere quali sono i nuovi mercati oltre i famosi BRIC, cioè oltre i famosi Cina, Brasile, Russia e appunto India, che sono stati, sappiamo, sono ancora paesi di grandi attrattività, ma appunto ci sono nuove aree dove forse questa scommessa, sempre con grande cautela, si può fare da qui ai prossimi 3-5 anni, proprio per poter cercare di diversificare un portafoglio azionario su delle aree che possono chiaramente consentire dei rendimenti elevati. E quindi dove andare a cercare questi mercati? Abbiamo sentito oltre 25 case di investimento attraverso le quali abbiamo potuto costruire una sorta di nuova mappa. Le aree che abbiamo individuato sono circa 7, e in assoluto il paese, il mercato che viene più indicato è la Turchia. Turchia, ma anche alcuni paesi dell'ex Tigri asiatiche, quindi Indonesia, Filippina, Malesia, e ancora nel Sud America è emerso il Messico e la Colombia, mentre nella zona dell'Europa dell'Est Polonia, Ungheria e Ucraina. Naturalmente sono paesi sui quali, dicono gli esperti, si può andare con, ripeto, estrema cautela. Per il piccolo investitore è assolutamente sconsigliabile avventurarsi con un fai da te. Ci sono degli strumenti, da un lato gli ETF, dall'altro i fondi appunto a gestione attiva, che possono rappresentare delle valide alternative, ma anche utilizzando questi strumenti bisogna fare molta attenzione. Attenzione intanto su questi mercati. Conviene diversificare una quota minima, diciamo dal 5 al 10% del proprio portafoglio a seconda del profilo di rischio, e poi, dicono sempre gli esperti, all'interno di questi mercati che noi abbiamo individuato conviene avere più una maggiore ripartizione. Certo. Facciamo un esempio banale: chi avesse puntato alla Turchia negli ultimi 3 anni o con un ETF o con un fondo porta a casa un guadagno che va oltre il 20%. Naturalmente, se uno avesse investito sull'Europa dell'Est nello stesso arco temporale ha delle perdite oltre il 30%, quindi voi capite bene che è veramente una scommessa molto difficile. Certo, bisogna comunque, come dire, destreggiarsi con molta attenzione, con molta cautela. Assolutamente. Quindi diciamo guidati, diciamo noi guidati. Da soli è meglio di no. Esattamente. Diciamo così. Allora, a proposito dei paesi emergenti, volevo strappare una battuta ancora al dottor Capacci, anche dal punto di vista obbligazionario, poi chiamiamo in causa un nostro ascoltatore che vedo già in linea. Lei condivide queste 7 aree individuate dai colleghi di Plus, che ricordo saranno domani in edicola, con proprio la copertina alla scoperta dei nuovi emergenti, anche dal punto di vista quindi obbligazionario dei paesi proprio? Sono due temi ben distinti quando si parla di obbligazionario su paesi emergenti. Sì. Uno è la qualità del credito, certo, locale, che a livello di governi oramai è meglio di quanto troviamo nel mondo occidentale, e un altro a livello di ci società. Strappa un sorriso questa cosa, però è così. È così, bisogna dirlo, è così, sì, bisogna dirlo. E dall'altra parte a livello di società, dove si vedono molte società con metriche di credito decisamente migliori rispetto a comparabili società occidentali e che pure pagano dei tassi di interesse più alto. Quindi dal punto di vista del credito sul fronte dei governativi non c'è più tanto sudo, sul fronte delle società c'è decisamente molto spazio. E poi c'è l'aspetto invece della moneta, che ovviamente questo è probabilmente ci porta in un tema che poi si ricollega al discorso anche delle materie prime, con tutto il mondo occidentale che sta facendo quello che in inglese si chiama currency debasement, quindi stampiamo moneta, un po' banalmente, però insomma, si potrebbe dire così, sì, ecco, buttiamo giù il valore delle nostre monete. I paesi emergenti, soprattutto alcuni tra questi, hanno le credenziali per vedere la loro moneta che si rivaluta in maniera sostanziosa, quindi diciamo che è un universo un po' articolato che sicuramente non abbiamo il tempo di elaborare qui, ma certo, un investitore deve sicuramente focalizzarsi su obbligazionario emergente. Che cos'è? Sto investendo in società locali, sto investendo in monete locali, sto investendo in titoli di Stato di altri paesi, ecco, questo è il punto su cui bisogna prestare attenzione, e in generale comunque l'opportunity set è molto molto molto incoraggiante. Allora, devo chiedere al signor Gianni di pazientare ancora qualche minuto perché noi ci dobbiamo fermare, dare la linea al GR, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, 12:34 minuti. Allora, subito dal nostro ascoltatore, che ringrazio intanto per averci atteso. Buongiorno a Gianni da Varese. Buongiorno signorina, grazie mille per avermi chiamato. Io volevo fare 2 domande ai suoi esperti. Primo, volevo chiedere: i paesi emergenti riusciranno a prendere il testimone dagli Stati Uniti e dall'Europa occidentale per guidare il movimento, la ripresa economica mondiale, o almeno per sostenere l'economia mondiale? Seconda cosa, volevo segnalare l'Australia. Ci sono delle obbligazioni della BEI che rendono il 5,30%, costano 99,5%, scadenza 2014. Ecco, volevo chiedere agli esperti se sono una cosa valida da prendere, essendo della BEI a tasso fisso e dell'Australia, che quindi non c'è rischio governo eccetera come in certi altri paesi, se è una cosa da prendere oppure no, perché il dollaro australiano è già salito parecchio in questi ultimi allora. Grazie mille, buongiorno. A lei buongiorno. La prima domanda la girerei al dottor Pasquali, se possiamo fare un discorso abbastanza generale ovviamente, quindi se c'è da fidarsi di questi paesi emergenti, se soprattutto possono darci una speranza in un momento in cui l'Europa e gli Stati Uniti di certo non ci tirano su troppo il morale. Beh, direi che sono più di una speranza, perché lo stanno già facendo. Cioè, se noi in questo momento stiamo crescendo, lo dobbiamo sostanzialmente ai paesi emergenti, che non hanno mai smesso di crescere. Quindi nel momento in cui il mondo occidentale è andato in profonda crisi dal 2008 al 2009, i paesi emergenti hanno visto rallentare la loro crescita, ma è rimasta pur sempre una crescita molto sostenuta. E questo ha permesso alle aziende europee o americane, comunque occidentali, di migliorare notevolmente i conti nell'ultimo periodo, quindi noi siamo stati già salvati dai paesi emergenti e dobbiamo augurarci che lo facciano ancora e dobbiamo augurarci, ahimè, che continuino a crescere. Certo. Anche se sappiamo bene che i cicli economici hanno una loro durata, quindi certamente la crescita infinita non esiste. Non esiste. Arriverà la recessione purtroppo anche lì. Invece al dottor Capacci volevo girare la seconda domanda del signor Gianni, anche se è una domanda molto specifica, per cui vediamo se è possibile dare una risposta a proposito di queste obbligazioni sull'Australia. Rispetto al merito di credito, EIB non è un problema, è il punto vero della moneta, cioè se il dollaro australiano continuerà a sostenere certe quotazioni o addirittura salirà ancora oppure no, questo è il punto. E onestamente fare previsioni in materia di cambi, certo, è un po' complicato, è un po' come cercare di, non so, ci vorrebbe la maga anche qui, notte, ma no? Insomma, cerchiamo però di astenerci, no, diciamo. Possiamo invece fare un attimo due parole sulle tendenze che ci sono dietro, cioè il dollaro australiano è salito molto perché è uno di quei paesi che beneficia della domanda di materie prime da parte della Cina, carbone e metal minerale ferroso, sostanze in buona sostanza, e dall'altra parte è uno di quei paesi dove non ci sono grossi problemi di tenuta dei conti pubblici, quindi sta assumendo sia sul fronte della traino dei mercati emergenti, come diceva poc'anzi il collega Pasquali, e sia sul fronte della stabilità del governo e quindi della non necessità di stampare moneta per tirarsi fuori dai guai, ecco, sono questi i due fattori che hanno portato sul dollaro australiano. Il mercato è un meccanismo che anticipa le cose molto e quindi c'è da chiedersi che pertanto quante queste tendenze possono continuare nel tempo, magari sono già tutte prezzate nel valore di certo. Oggi del dollaro, quindi per stare un attimo attenti. Ecco. Allora, tornando invece a Plus, Lucilla, prima mentre sì. Nessuno ci ascoltava, tu mi dicevi, oltre ovviamente all'azionario, noi abbiamo fatto anche un focus sull'obbligazionario per quanto riguarda questi paesi emergenti. Sì, diciamo che naturalmente andando alla ricerca di temi che, sui quali investire, oltre ai paesi emergenti, ai nuovi emergenti, c'è il famoso tema dei titoli obbligazionari, sì, corporate, ma anche appunto i titoli obbligazionari dei paesi emergenti, e concordo con i nostri esperti, i due problemi sono sostanzialmente questi: il rischio valutario in questi paesi e quindi da prendere con estrema cautela sia sul versante azionario sia su quello obbligazionario. Un'alternativa, mi suggerivano appunto altri esperti che abbiamo sentito in questo servizio, è quella proprio di andare, per esempio, di andare sui paesi emergenti con dei titoli emessi dalla BEI, quindi dove abbiamo un emittente abbastanza forte e dove appunto c'è soltanto il rischio della valuta. Questo può essere un'alternativa interessante, ma sempre, ecco, sono sempre però dei titoli da prendere con estrema cautela, con perché le pinze. Appunto abbiamo visto che su questi paesi c'è un problema di rischio politico comunque sempre dietro l'angolo, e questo può creare ovviamente delle fluttuazioni molto forti sia sui mercati che appunto sulla valuta, dove peraltro l'effetto speculativo è sempre certo, diciamo, presente. Allora, io vi ricordo intanto i nostri numeri 800 24 00 24 per intervenire in diretta e per i vostri messaggi 349 238 6666. In questa settimana, forse anche più che in altre, ma da parecchie settimane a questa parte, si parla molto di questo prezzo dell'oro che va su, perché in un momento così difficile, di così alta volatilità, l'oro è appunto sempre una materia prima che viene vista come il bene rifugio, se così possiamo dire, supremo, e infatti ultimo di stamattina, ultimo record, questo sfioramento di quota $1,300. Dottor Pasquali, a questo punto cosa ci dobbiamo aspettare? Qual è il limite, o qual è la possibilità massima? È davvero solo l'oro, oppure possiamo anche ovviamente diversificare, perché insomma $1,300 l'oncia non è proprio come dire alla portata di tutti? No, sembrerebbe un prezzo elevato, però uso il condizionale, sì. Perché comunque la lettura del prezzo dell'oro diventa interessante a questo punto, cioè sta a significare che sì. C'è effettivamente un grosso problema. E quando ci sono questi problemi a livello finanziario, la materia prima, principe, sì. Su cui rifugiarsi proprio l'oro. È l'oro, sì. E quindi starei anche ben attento a dire l'oro ha un prezzo troppo elevato, l'oro è in una bolla, l'oro... Ecco, valuterei bene la situazione. Se dovessi valutare bene la situazione direi no, è un prezzo appropriato perché ci sono delle tensioni tali che probabilmente faranno lievitare ancora di più i prezzi dell'oro, assolutamente. Questo però vorrebbe d'altro canto dire, se seguiamo alla lettera il suo discorso, che le tensioni aumenteranno ancora di più e che quindi le difficoltà aumenteranno di più. Io me lo aspetto perché se notiamo comunque le mosse politiche, a cominciare anche da Basilea 3, sì. Alla fine si aspettava con tanta ansia Basilea 3, è uscito un qualcosa che dire che è un'acqua di rose, se non passate il termine, è dir poco. Quindi non si sono prese per l'ennesima volta delle misure giuste per far rientrare determinate problematiche. Dall'altro canto abbiamo una serie di politici che cercano di fare il loro mestiere e quindi misure impopolari non ne vogliono adottare. Nel frattempo i conti pubblici si deteriorano e sono lì da vedere. Certo, il loro mestiere, anche qui ci sarebbe da intendersi su che cos'è, su che cosa dobbiamo intendere per loro mestiere. Però Il loro mestiere è non perdere voti. Purtroppo sì, è quello. Ce ne sarebbero anche tante altre di funzioni di un politico, ma comunque questi sono altri discorsi che lasciamo. Esatto. Allora, do il benvenuto al signor Sergio da Rimini. Buongiorno, ci dica. Buongiorno. La mia domanda è questa. Volevo sapere se fra tutte le obbligazioni possibili le BEI sono le più sicure o ce ne sono di più sicure. Secondo punto, volevo chiedere in Europa qual è il paese più affidabile dal punto di vista del debito pubblico e della solvibilità. Allora, dottor Capacci, le obbligazioni BEI sono le più sicure o c'è qualcosa di ancor più sicuro? Beh, dunque, BEI è una banca posseduta da tutti i paesi dell'area della comunità europea sostanzialmente, che ha un livello di patrimonializzazione elevatissimo, un Tier 1 ratio che è oltre il 20% mi sembra. Quindi già di per sé potrebbe stare in piedi con un massimo rating da sola, in più c'ha il supporto esplicito di tutti i paesi che stanno dietro, quindi è qualcosa di effettivamente quanto più vicino possibile alla sicurezza totale. Poi se c'è qualcosa di più sicuro ancora, dipende, il problema è che le cose cambiano nel tempo, quindi una cosa oggi può sembrare molto sicura, poi domani si scopre cambiare. Faccio l'esempio della Germania, no? È un paese che tutti dicono ha un ottimo rapporto tra debito e PIL, si è ripreso più velocemente di altri, cresce il deficit, con questa crescita è ragionevole presumere che ritornerà sotto controllo in tempi molto brevi, però se uno mette in conto alcuni fattori demografici e di solvibilità sul fronte delle future pensioni, forse è messo peggio dell'Italia. Ecco, alcuni studi perlomeno sembrano proiettare una situazione a 40 anni avanti completamente diversa da quella che abbiamo sotto occhio oggi. E lo stesso vale per la Francia, che è un altro paese che ovviamente tutti reputano avere un'ottima credibilità dal punto di vista del merito di credito. Ecco, quindi, e con queste sue affermazioni lei ha risposto anche alla seconda parte della domanda del signor Sergio, il quale ci chiedeva se tra i paesi europei ce ne sono alcuni più affidabili di altri. Noi avremmo pensato tutti alla Germania fino a qualche istante fa, ma lei ci ha dimostrato che è così non possiamo pensare. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, linea alla viabilità tra pochissimo. 12:47 minuti, ultima parte di Salvadanaio. E allora, tanto per non farci mancare niente, anche un SMS che è proprio, come dire, positivo, non lo possiamo definire. Il signor Antonio ci scrive: i mercati anticipano e va bene, ma se i tassi sono ancora così bassi, vuol dire che siamo distanti dalla fine del tunnel, dottor Pasquali? Ah sì, direi proprio di sì. Ma proprio molto distanti sì, a questo sì. punto. Direi di sì, perché e lo si vede poi dai dati economici, no? È stata una piccola ripresa, niente di più, e adesso addirittura questa piccola ripresa viene messa in discussione, proprio perché non ci sono stimoli veri all'economia, come diceva prima il dottor Capace, giustamente. L'Irlanda ha emesso sì 1,5 miliardi di nuovi bond, sì, che sono stati sottoscritti dalle banche, la quale hanno preso poi a prestito dalla banca centrale 1,5 miliardi di euro. Quindi in teoria la banca centrale dà liquidità per finanziare l'economia, le banche raccolgono questa liquidità, non finanziano l'economia, vanno a finanziare uno Stato che probabilmente sarà insolvente, e quello è il nocciolo della questione. Quindi non si generano nuovi flussi che vanno a stimolare effettivamente l'apparato industriale, cioè l'economia vera. Certo. Vengono tutti intercettati dagli Stati che hanno grossi problemi. Allora, io volevo chiedervi questo. Ovviamente in questo momento si parla molto del rischio paese per quanto riguarda l'Irlanda, quindi che sia, che possa essere uno stato insolvente, che da qui a chissà quanti mesi ci possa appunto essere una grave crisi. Altri rischi si affollano sulla testa, se così possiamo dire, del Portogallo, ma anche della Spagna, della Grecia. Quando e se questi rischi si possono in qualche modo propagare o slittare sulle aziende che fanno parte, che sono in questi paesi, se questo avviene, se avverrà, se già sta avvenendo, e quindi ovviamente se si ripercuote anche su quelle che sono le società quotate nei vari listini. Dottor Pasquali e poi il dottor Capacci. Ma io sono dell'idea che sembrerà assurdo, ma probabilmente, anzi senza probabilmente, saranno le aziende, cioè le corporate, a beneficiare di una situazione del genere, perché tolto il problema che è poi il debito, sì, il debito ingessa tutta l'economia, tolto quel problema le aziende riprendono a galoppare. È un esempio su tutti, non so se andiamo a vedere l'Argentina, le aziende argentine dopo la svalutazione, il default, sì, dell'Argentina, mm-hmm, ne hanno beneficiato a livello di bilancio per anni. Quindi per assurdo non sarebbe poi neanche un problema per determinate aziende, che quindi hanno la possibilità di sganciarsi, di togliersi un fardello di dosso, un peso, esatto, un vero e proprio peso che noi quindi tutti abbiamo, e quindi liberare l'economia, lasciarla veramente muoversi di conseguenza. Un peso neanche da poco con cui nasciamo. Esatto, soprattutto in Italia. Purtroppo sì, con cui nasciamo, e questo è proprio il caso. La sua opinione, dottor Capacci? Ma non sono molto d'accordo, devo dire la verità. Cioè, se mi sembra che qui stiamo parlando tra le righe del fatto che fallisce l'Irlanda, fallisce la Grecia, fallisce la Spagna, il Portogallo. Cioè, in uno scenario del genere si salvi chi può, ragazzi, non è uno scenario nel quale si può pensare che abbiamo, soprattutto per il fatto di essere all'interno di un meccanismo di moneta unica, questo è uno scenario in cui qualcuno ne esce bene, ne escono tutti con le ossa rotte. Anche i paesi migliori, anche le aziende migliori ne escono male, molto male, ed è per questo che alla fine quando ci si avvicina a questo momento di crisi per forza di cose viene fuori una solidarietà paneuropea, certo, perché comunque alla fine ci si perderebbe tutti. Comunque detto questo, se posso fare un inciso veloce, certo, la Grecia probabilmente è condannata un bel momento a ristrutturare il debito, perché per quanto lì misure impopolari siano state prese, e le stanno anche prendendo in questi giorni, è molto sappiamo draconiano lì, perché stiamo parlando di una stretta, sì, fiscale di 15 punti di PIL nell'arco, sì, di un anno, che non è una, è una cosa che penetra nelle tasche di qualunque cittadino, certo, ma anche un bel po', ecco, e quindi anche sulle aziende in misura indiretta. per quanto quindi stabilizzeranno magari il deficit nell'arco di 2-3 anni, il problema che rimane è uno stock di debito che è enorme, arriveranno al 140-150% del PIL, che è difficilmente sostenibile, a meno che non, miracolosamente non esca fuori una crescita economica che anch'io faccio fatica a intravedere. Sì, purtroppo sì. È diverso secondo me e secondo noi il caso dell'Irlanda, della Spagna, perché sono economie che hanno dei risvolti e delle flessibilità diverse e soprattutto partivano da una base di debito molto più bassa, quindi per quanto hanno una congiuntura difficile, hanno dei problemi col sistema bancario in Irlanda, sostanzialmente tutto il problema dell'Irlanda è una banca fondamentalmente, Anglo-Irish, tolta quella l'Irlanda non è che avrebbe un grandissimo problema. Comunque proiettata avanti la situazione dell'Irlanda, non è che si arriva ad un estremo che non è sostenibile, perché la base di partenza era più bassa. È un po' simile al discorso per la Spagna, forse il Portogallo potrebbe cascare più nel capitolo Grecia, però per fortuna sono tutti stati, Spagna escluso, che sono relativamente piccoli, quindi i problemi di finanza pubblica in quei paesi lì, con un minimo di solidarietà europea si possono gestire, ecco, certo. Non è che siamo condannati per forza al fallimento, che ripeto sarebbe una grande disgrazia. Sicuramente, e comunque tutti ci auguriamo che questo non accada. Io devo salutare la collega Lucilla Incorvati di Plus, perché appunto deve tornare al suo lavoro velocemente, e quindi grazie Lucilla per essere stata con noi. Grazie a voi, buon fine settimana. Grazie, ricordiamo che la copertina di Domani di Plus è alla scoperta dei nuovi emergenti domani in edicola. L'ultima battuta velocissima, perché siamo anche noi in chiusura, da entrambi i nostri ospiti, perché a questo punto non possiamo esimerci dal non dare una sorta di previsione, anche se molto molto molto leggera, su quello che potrà avvenire per quanto riguarda il dottor Pasquali, a questo punto sui mercati. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare almeno per le prossime settimane, visto che oggi mi sembra di capire che chiuderemo con il segno meno? Ma veramente difficile fare previsioni, però valutando il perdurare di una crisi che ha origini lontane, consiglio veramente un'estrema prudenza, quindi valuterei di settimana in settimana quello che succede. Ogni tanto restare a guardare può essere abbastanza istruttivo. È quello che proprio mi ha tolto le parole di bocca. A volte ci sono periodi storici in cui non bisogna cercare di guadagnare, ma bisogna cercare di non perdere soldi. Certo. E questo secondo me è uno capire quello che succede. Esatto. Dottor Capacci, l'ultima battuta, proprio l'ultima a lei. Mi sento dall'amico Pasquali, io penso che in questo periodo qua ci sono una marea di opportunità in giro che non è facile cogliere, perché sparando nel mucchio. Certo, bisogna però essere però molto avveduti. Noi del credito dei mercati emergenti, il credito nei paesi europei, ci sono ancora tantissime cose molto interessanti che danno molta opportunità di poter avere dei rendimenti più che decenti in un mondo in cui, se uno sta troppo conservativo, e non li vede, quindi comunque quindi, pertanto che le cose non vadano bene, quando uno comincia a fare 5-0 un anno, 5-0 l'anno dopo, siamo già 10-0 e poi vediamo come andiamo al terzo anno, ecco, questo noi la vediamo più così. Grazie ai nostri ospiti Davide Pasquali, presidente di Farus SICAV, Corrado Capacci, direttore generale di Compass Asset Management. Salva Danaio termina qui, nuovo appuntamento per lunedì. Salva Danaio.